E beh già, cenando. Nulla, oggi digiuno. Ma vai. No, non è mangio, stanotte non è mangio, ma già se ieri notte una spianatina con guanciale e fontina e dico tutta la notte vostola pure. Vostola e vostola. Io ho mangiato un paio di finocchi, due fette di salsiccia e... roba così, roba leggera. Non avevo una manchia, però qualche cosa devi pulire la sotto ai denti. Che se non disastro. Lo so, ma sono una settimana che hanno proprio più di influenza che non lo so. Da voi che si dite se è freddo, umido, non lo so. Ve la stufa oggi sono con quella avversa un camarone. Se è un freddo vuoi in occhi, che non ne so, che brucia in abbia questa stufa. Ai. Fuori c'è freddo. Aspetta da domani sera. Da domani sera dato il calo delle temperature. Da domani già dato il calo delle temperature, però cambia il vento, non è umido, ho capito. Fa di freddo ma non è umido. Non lo so, Gabri, non lo so, io non so più come si sa, non lo so. Adesso sono tutto il giorno, sono tutta la rimpiglia qui, non fa, mi traio per freddo. Mi gocco me ne beso, non lo gioco, mi ogni tanto mi ho mangiato due pistacchi, mi ho bevuto un po' di Schweppes al limone, che so sempre come stavamo busto la busto. Eppure non lo so, non ho mangiato niente di anomalo, magari per influenza, per qualche cosa, non ne gioco. E poi mi si piacciono le gambe e i piedi ed è un casino, una buvito dei vizzini, dei figli di Davide, Assenni, Valenni, Abrendi, Carrendi, cosa ribussi di noi, ribussi di nulla, devo soffrire e basta. Già, purtroppo sono ragazzini, cosa li vuoi dire? Io voglio cercare sempre trisci, ah, è buon un brocco, è il veri secco. Non lo so. Hai visto stasera, stai parlando con Gigi, un bel pratico di 48, di quelle radiolime. E infatti mi ha detto che se trovava qualche foto già te la mandava per tagliare quel filo verde e tagliare, deve essere qualche transistor, un treppiedino, qualche cosa. Certo, vabbè, se ti capita l'occasione, addirittura gliele mandi e poi la faccio vedere, già è facile quello. Però dopo che fai quella modifica non puoi attaccare l'amplificatore, dimmi. Ma ha detto, vabbè, ma se c'è un 22, 25 watt bisogna amplificatori, non penso Brooks. No, infatti non ce n'è bisogno. Dopo se esce con quella potenza lì non è bisogno, perché poi prende anche un midi radio e va e non viene amplificatore, non mi deghere se. Mattino ho sentito, capito che sono ancora dormito, ma io non lo so, visto cristiano. Non lo sono, comunque l'ha chiamato a Davide, non lo so se era in campagna a vedere se erano tornati i cani, a questi due figli, oggi li hanno tutta la lì in giro, e quindi farà da vedere uscire che erano nel cancello e che tenne a fare la cura. A chi gli stesse cani miei sono fuori di testa. Cioè i cani di babbo, a chi di meno preso più, di meno oramai erano i manni, c'era Jack e Peppa, c'era una foto, se la becco te la mando, era una specie di spinone tutto quanto barriento piaddu, una specie di pornese sembrava, e invece Peppa era una specie di quello con le orecchie lunghe e le macchie marrò con il pelo liscio bianco. E niente, quindi Zanni ve la via. Ma sono cose già. Se sono uscita a chi si vuole tenere sui pari, nel paese ci sono i cacciatori, verrà a casa bella. Stasera ne ho tutti i fusilati, magari dai. Non lo so in queste zone qua quanto li possano tenere la caccia aperta, ma erano qua vicino, era. Una di a Giumai, a uno, se poste già due vicino a casa, no? Che era a 30 metri, a 30 metri fusilenti, una coppia, in due ieri. Sono uscito dal cancello, ho detto, ah, qua c'è mammuti, so, di punite a cazzia, a fa. E poi sono uscito sui piazzi, tu non vai sui piazzi, a cavallo quanto un roccio, vedi cosa ti sostiene. E poi trattavo un fusile. Cioè, stai pittina. Io posso uscire in piazza, beh, va, che fai che sui piazzi, la città va, ti chiamo la forestale. Rimani, no, che ti chiamo la forestale. A poi deve essere avviso qui, vedo già mente avviso, tu però, cazzo, non c'è bisogno, mi piglia, e io non c'è bisogno, se c'è avviato, no, che vai, non lascio più vicino. E a chi la ieri oramai non c'è più, se vedo, se vedo, ma magari sa bene che ieri magari basta qualche tuffo, qualche cosa, si dice a vedere. Ma non lo so, io guarda, avendo il posto d'armi eccetera, non ci andrei mai vicino a un abitato, me ne ero andato in Pinetta, me ne ero andato in questa binetta che vi attenda a Uzio, in Castellugu, ma qua così non fa, perché tanto oramai è un casino, ce n'è troppi, cacciatori e basta poco e ne c'è un casino. E allora, troppo casino c'è già, troppo casino e non fate, capita, sono tutto a fianco, non capite, ci sono pochi educati, tranne quella compagnia di caccia grandi, che quelli sono, diciamo, sono educati, però quando c'è più a colpi di due o tre persone si intruffoleggiano e visitano i casi, e si sono fuori di capo. Aggiunta, insomma che io ho una figlia che gioca fuori, una cosa si conviene. Quando ti aggiunto così, prima tu, allora ti diciamo la forestale, è vero. No, vabbè, non mi ripiglia, allora sei avviati dai nove. Io per mio figlio la gioca di fuori e tu sei fusilente. Mamma mia, ti pare. Ma perché? Sono vicino a casa tua, ciao, buonasera. E allora. E dove stavano battendo lì? È un dibattito la mamma. Vabbè, purtroppo è così, non c'è più un palmo di mondo sano, non c'è più un palmo di mondo sano. E beh, chiamato per la macchina? Sì, ho chiamato, ma non faceva per le mie cose, capito? Perché era 500 a toglierlo, 500 a metterlo, più voglia cose da vedere se c'era altra roba da mettere, capito? Veniva più alto molto il budget di quello che mi hanno offerto a me. Sì, ho capito. Magari a te te lo stanno facendo anche un po' a titolo di cosa, a titolo di amicizia, e ti stanno facendo un buon prezzo. Però i prezzi sono quelli, i prezzi sono quelli lì, guarda, a volte ci sono più soldi di manodopera che soldi di pezzi e di cose. Ha pure a che fare responsabilità e magari ti dice io te lo faccio bene, però vedi una. È un casino. I prezzi sono quelli. E va bene, vai Gianni. Ehi, me lo stava dicendo, e mamma ha detto che c'è da considerare che poi c'è da mettere l'olio del motore, l'olio del, come si dice, dell'idroguida, dei freni, della pressione, il liquido del radiatore, ma di tu, che si gustano, non è tanto fare il lavoro, è comprare poi l'olio, il liquido e tutte le cose, quindi i soldi sono quelli. Da una parte c'hai ragione, io poi invece pensavo che non lo so, però dai che ha fatto un gasto, che vivo tosto olio, tosto liquido refrigerante, liquido idraulico per pressione, freni eccetera, che alla fine devi mollare tutto, capito? E ma cartuccia d'olio, cartuccia gasolio, questo lì si fa un giro dei conti, non è che. Vabbè, comunque già è sempre, il motore ha detto se gli serve già c'è, quindi già non ve ne è problema. Sì, infatti, adesso vediamo cosa ne c'è fuori chiedendolo agli altri, perché se fanno prima prendere a smontarne una piazza da un altro e fare le cavolate c'è da fare, vediamo, ma non lo so, non so cosa dirti, devo parlare con col meccanico. Perché anche io non lo so quanti litri ce ne stanno di olio, non lo so se erano 5 litri o 6 litri nel motore, e tanto quanto liquido radiatore, che ci vuole quello specifico, se c'è il blocco d'alluminio, se c'è l'altro blocco, e ultimamente questi prodotti costano un casino, sì, costano un casino, perché io lo so che ho una 500 Abarth modello nuovo, e l'olio costa, i filtri costano, ed è tutto un casino. L'ho portato a fare l'ultima manutenzione alla Fiat e ha fatto un tagliandomi nel manco bacini di Venere, a San Bardo, fino a manco di 2000 km. Mi ho speso 360 euro solo per fare il tagliando. Sì, ci credo, ma figurati, è che devo sentire un po' anche l'altra parte, diciamo, se riesco a farlo ragionare, nel senso che perché io sinceramente non ho i pezzi, li pago, ma non pago la manodopera, capito? Quindi però i pezzi li pago. Infatti devi valutare cosa ti dice il meccanico, che tipo di danno c'è, e poi da lì vedi tu se ci vuole o non ci vuole il motore, capito? Se no, ma di recuperare giro motori e il motore 2 è buono, ma te. Vediamo. No, più che altro gli conviene magari se c'è un pezzo, se gli serve un pezzo che è più costoso di comprare il motore, gli conviene, non aspetta, non comprare il pezzo che mi compro. Se per esempio ti conviene, dove un pezzo che costa, spero di no, che se non avessi via, però se c'è un pezzo che costa 400 euro, ti conviene comprarti tutto il motore di Davide e dargli quel pezzo che gli serve, almeno poi c'è un motore di ricambio. Sì, anche quello è vero, ma voglio dire, non credo che ci siano pezzi da cambiare, a parte il radiatore, che adesso sarà bello che è incrostato, perché essendo tanti mesi ferma, poi l'ho presa per portare in officina, non era sprintosa come l'ho lasciata, quindi sicuramente qualche incrostazione, qualche cosa, insomma, ha contribuito anche a fare un po' di danno, speriamo di no. Comunque vogliono cambiarti tutti i tubi, vogliono cambiarti il radiatore, vuole cambiato per forza, poi il resto vuole fatto lavaggio. Io la colpa la do a chi te l'ha fatta per prima quella macchina, eh? A chi secondo te l'ha fatta il primo meccanico, vi sarei bucciata. No, allora guarda, chi l'ha fatta per primo mi aveva cambiato il coso, già ne ho visto la tua stazione, l'ho vista adesso, così c'è, a Cagliari abbiamo fatto la turbina, e quindi vabbè, 1200, porca miseria, porca paletta, come si suol dire, che mi sarà rotto dopo un po' di anni il primo scambiatore di calore. Cambiato quello, però ho cambiato subito, capito? Cambiato subito, e quindi diciamo che non ha sporcato niente, fatto e cambiato, ripiazzato tutto quanto. Questo me l'ha fatto quello che c'ha la Peugeot, l'Intas, e dopodiché mi si è rotto di nuovo questo, però un po' per colpa mia, per andare a lavorare, insomma, l'ho usata anche se facevo pochi chilometri, l'ho usata così con lo scambiatore di calore che già mi stava dando i primi segni, nel tappo della vaschetta dell'acqua, capito Gavi? Ah, ok. Purtroppo quando ne hai una e devi andare a lavorare è un disastro, è un casino, già ti capisco, perché quando ne hai una, noi avevamo il classe A, la penultima serie, La signora Travaglio di dove ne fu di interra un motore, ogni lavoro, motorino d'avviamento, il motore in terra, cinghia dei servizi, scende nel motore per mettere il motore a un fianco e sono riusciti a farlo fortunatamente, alternatore, motore in terra, qualsiasi cosa, un motore in terra, appare un volano, motore in terra, alla fine l'ho venduta, alla fine, e ogni volta erano colpi di 500 euro più pezzi, 500 euro più pezzi, motorino d'avviamento l'ho pagato 280 euro più pagato. Più di 200 euro di mano d'opera con i motori, è porca miseria. Non lo so, ogni volta hanno colpito 500 euro con quel classe A, bello, bello, però ho detto no, fermate un attimino. La gioventù da una vesseria a un ragazzo e questo ragazzo l'aveva rivenduta e sta ancora girando. Ma non era roba da tenere, la mia era nuova, nuova, non va via una becca, su quel classe A. Era la prima serie classe A, quella che capottava, ma la seconda serie, quella, avevamo fatto classe A, classe B, ed era l'Elegance, era quello bello, era il 2000, il CD grigio, era bello, non aveva un rap, non aveva nulla, bella, grigio chiaro, con cerchi 17, bello. Però alla fine l'ho fatta fuori. Vai Gian. Se le auto sono un po' delicate ci vuole la manutenzione. Comunque quando si imbratta il radiatore e lo scambiatore di calore vuol dire che la turbina si è fusa, perché praticamente butta l'olio fuori, si butta l'olio fuori, lo brucia, lo butta dentro il motore. Però potrebbe anche essere che siccome la turbina c'è anche il passaggio dell'acqua per raffreddare, quindi se si è consumato l'alberino dove ci sono le bronzine o i cuscinetti, dipende come è fatta la turbina, allora sì, allora entra dentro il motore tramite il passaggio dell'acqua della turbina, perché se entra nel motore l'acqua da un'altra parte vuol dire che brucia d'acqua nel zona del caldo. Però se ha detto che quella non si è bruciata, allora il problema è nella turbina e nell'intercooler, che sarebbe lo scambiatore di calore, tutto lì. E niente, è una cosa che più o meno lo sanno i meccanici, perché alla fine tipo i radiatori e le cose vanno tutti lavati, puliti a benzina ed escono puliti. L'unica cosa che magari ci potrebbe essere da sostituire è qualche manicotto in gomma che si è surriscaldato e diventa tipo gommoso e si gonfia, tutto lì. Però poi del resto dovrebbe funzionare bene la macchina. Anche una uscia si è facciata di Pa' Davide, la turbina, praticamente non so cosa è successo, ha detto ha cominciato a far fumo bianco, e l'ha portata al garage, ha detto che c'aveva il radiatore pieno di urio, il radiatore dello scambiatore aria e l'intercooler. E niente, l'ha lavato, l'ha pulito, l'ha fatto, ha riprovato la macchina, però e poi era la turbina, infatti poi la turbina gliela ha sostituita. E niente, però la turbina volendo puoi mettere quella originale tipo come, oppure ci sono sempre vendendo la KSK oppure la T5, non mi ricordo come si chiama, ci sono su AliExpress pure. E niente, e devi solo vedere, devi sapere il punto critico che è successo in quella macchina, tutto lì. Una volta che sai che punto critico è successo, puoi agire di conseguenza, capito? E niente, la deve vedere il meccanico e sapere cosa è successo. E poi valutare un po' cosa si può fare e la recuperi. Anche se noi, tanto vari che abbiamo più luci, secondo cos'è, conviene comprarne un'altra e sistemare magari la tua o quella là. Scusati. Oh già, ma la sua non faceva fumo bianco e la sua turbina non aveva niente. E allora vuol dire che già bruciava bene. Però a riempirsi l'intercooler d'olio, qualche passaggio da qualche lungo vira. Ma lui gli si è rotto questo intercooler qua, ma la turbina, la macchina, la macchina, sicuramente a qualche altra acqua emulsionata, potrebbe essere anche qualche cilindro, qualcosa che sta pompando, qualche fascia, anche qualche fascia qualche fascia incollata, poi quasi tutto, però la turbina della macchina sono va nuda, chi fumo bianco non li vasi, o sbaglio ti? Allora, la turbina fa fumo bianco quando si rompe, avemmo spappa, fanno il pappa, e quindi devi spendere a me 1200 euro per sostituzione turbina a quarto, questo è quanto ho pagato io, e più il vabbè, più c'è la carattrizzi. Sì ragazzi, no, ma io penso, no, non è come, allora a me mi ha spiegato semplicemente una cosa, che vuole cambiato il che si chiama quello di calore, e poi alcuni manicotti, e soprattutto perché non riesci a pulirlo, devi cambiare il radiatore, perché anche se gli fa lavaggio non fa, capito? A meno che lo smonti, lo fai, lo devi aprire, lo devi praticamente portare a nudo e pulire tutte i passaggi dell'acqua, capito? Ma il radiatore già lo pulisco con la benzina, anche lo fanno ad acetone, lo fanno a diluente, lo pulisci il radiatore, dopo ci vuole un po' di materiale, però lo pulisci. Questo è a chi non ne vuole fare e a chi non vede tempo, perché il radiatore altrimenti lo pulisci ti, e ha voglia. Se si rompe addirittura, secondo ve lo rompono te lo saldano pure. Secondo dove si rompe te lo saldano pure. La pulizia si può fare ed esce anche bene, perché è già stato fatto e riesci tu ma il non lo so scambiatore di calore non me ne intendo. Signori, io mi curico che domani mattina la sveglia è presto. Vai Gianni. Eia. Allora, lo scambiatore di calore praticamente è un carterino dove passa l'olio e l'acqua e niente, quindi l'acqua del motore col radiatore fa raffreddare l'olio del motore. Però se si rompe quello lì si mischia tutto quanto e niente, come stavi dicendo tu, il radiatore, sia quello dell'acqua o quello dell'intercooler, che sarebbe lo scambiatore di calore, li lavano e li puliscono a benzina, anzi addirittura prima di pulirlo con la benzina ho visto un video dove gli attaccavano una bottiglia di Coca-Cola, la sciucchittavano e a riserva come si dice a pressione uso e anche esisti dal radiatore, e poi lo lavavano a benzina, è ovvio che lo devi smontare e lo mettevano con i sensi del manicotto a stessa terra e poi lo soffiavano a bassa pressione per farlo asciugare dentro e niente. A chi si non è, anche questo è un radiatore, questo è un casino, non è un radiatore di chi si mangia. Se quello non ha niente, basta solo lavarlo prima a benzina o a Coca-Cola dopo, o prima a Coca-Cola e poi a benzina, perché così proprio non lo scrosta, si ha qualche tipo via delle carnette intappate, tutto in ghiaccio. Però se lo scambiatore di calore è quello che sto dicendo io, è un pezzo d'alluminio con una specie, sembra una specie di pompa d'acqua, e ha due passaggi, a uno dell'acqua e uno dell'olio, e serve per raffreddare il motore, tutto lì, capace di riaffacciare il giorno, quindi comprandolo nuovo, non so se costerà un centinaio di euro, 150, però quel pezzo lì è un pezzo essenziale. Se si faccia lì si vive la macchina, che si viene adulta ad uso e si mischia tutto grande. Ciao capitano, devi andare tranquillo. Sono appena le 9, però devo dire comunque, sono appena le 9, anche se la tua sveglia sarà alle 4 sicuramente, sono le 3. va bene così perché insomma tu non riposi, la sera peggio per te. Va bene, dai, ti rimando Gianni per i saluti, poi rispondo a Gianni. Sì, allora Gavi, buona ricarica e buon proseguimento e niente, ci sentiamo alle prossime, andate, buonanotte. Yes, yes, ciao, buonanotte, buonanotte Tino, buonanotte Gianni e buona giornata per domani. Sì, Tim, la sveglia è presto, quindi devo... mi metto nel letto, dai. E ciccio, e va bene così. Finite le feste, finite le feste. Da domani si rinizia a battagliare. Ci sentiamo domani in radio. Buona, buona notte a tutti e due. Buon proseguo di serata. Ciao ciao. Vai, Tino. Questo è Antonella Bello che sta vendendo salsicce su Facebook. Questa è una, insomma, non so, una mia, come si chiama, quando ci sono due che vogliono vendere lo stesso prodotto. È di Usilo, la conosco. Di Usilo, la già fa buona. Antonella, Antonella Bello, sì sì, la conosco anche molto bene perché beh, è una... ma non credo che le facciano loro, perché sono tutti, lui è militare, il marito, lì è guardia, è polizia penitenziaria. Magari le fa il padre, magari le, fanno, le fa il padre, magari l'ha messa in vendita lì. Va bene, va bene. Ciao Tino, buona, buonanotte, buonanotte anche Gianni. Alla prossima, vai, ti riprendi. Polizia penitenziaria spacciano carne, mi meraviglio. Va bene. l'ho vista anche io, venendo di Ciubisassis. Senti da Giuditto, la conosco molto bene. Va bene, va bene, adesso vediamo, gli ho chiesto a quanto era il prezzo. Ah, dipende dalla stagionatura, siamo sui 25 euro. Io sono ben dietro con il prezzo, ma un bel. Vai, 25 euro, della la punizione di Giobbo Baggiobbo, ti dico io, vai, si rimagna. Buonanotte. Adesso che no, Allora, se, diciamo la verità, che se è stagionata proprio dura, dura, 25 euro è il prezzo suo, ma anche 22, 25 è già troppo, troppo avanzata la cosa, però tieni conto che la carne sta aumentando tanto, quindi ci sta tutto, sia il lavoro che è fatto, la stagionatura e tutto quanto. Se vale si può prendere. Non la pagherò mai la salsiccia a 25 euro il chilo, ma assolutamente, ma assolutamente. Tu dirai, però, ma non l'avviso, cioè, io, cioè, a me qui c'ho visa, chissà, mi durano i 4, dimmi. Boh. Ma non devo fare un regalo, non devo, me la voglia, ma 25 euro stiamo esagerando, dai, io, porca miseria, la carne costa, la carne coso, però, boh. È troppo, troppo, troppo, troppo, troppo. Dai. Comunque. Chiudo e non riprendo. Ciao, buonanotte. Vai, vai, vai, vai, vai. Ciao, ciao, ciao. No, no, aspetta, un'ultima domanda e poi ti ci mando. Come per dire. Ma scusa, stiamo parlando di carne nostrana, no? Parliamo di carne commerciale. Quanto la paghi tu al supermercato? Un mezzo giubbo di salsiccia. Se tu fai, ti guardi al chilo, devi guardare, non che prendi un ciobbo e dici questo 8 euro, cioè va bene, no. Devi guardare il prezzo al chilo, quanto la paghi? Sii sincero perché li sono tutti, eh. Io prendo la salsiccia di Desolo e la pago a 17 euro il chilo costa. 17,90 la salsiccia di Desolo ed è buona. Stiamo parlando già di 18 euro al chilo commerciale, commerciale, attenzione, commerciale. Ho capito Tino che è commerciale tutto questo che vuoi, però sono sempre 8 euro in manco, tutto quello che vuoi, ma la salsiccia buona, quella di Desolo è buona, penso che tu l'abbia assaggiata. Però una salsiccia buona, una salsiccia che non ha niente, niente a che vedere con Murru, non ha niente a che vedere con le salsicce di Macomer, che sono, quelle non è che sono commerciali, ma quelle sono mondiali, che non vogliono viste. Però quella di Desolo è buona, io quella di Desolo la mangio bene ed è buona, e la pago a 17,90, fai che 18, sono 7 euro in meno. Sono 7 euro in meno e queste persone 7 euro in meno hanno anche spese a livello a livello di tasse, dici cosa pagano? Cioè, contro le, io sono, io tasse non le avrei pagate, fanno bene a non pagarne, però cioè, non lo so, è 25 è tanto, ma finché sono 20 euro, 21 si può anche fare, ma non 25, ma assolutamente. Già ne approfittano. Mio padre va a Pulti, lo sai benissimo perché è in pensione, continua a lavorare, poi c'è la barca sua, e gli sta dando lì da 10 a 12 se sono un po' piccoli. Ma se tu compri un chilo di polvere adesso a 20 euro, mia, 19 euro, 19, 20 euro, non è roba da comprare, mi sembra che la madre gli ultimi che ha dato sono a 10 euro. Polvi rientrati da mare, cioè rientrati da mare, vivi ancora, li dà vivi dentro il secchiello. E babbo non va nello, babbo va in posti dove ha sempre lavorato a prendere i polvi, si mette il carro armato di lire, se gli vasi, li piglia otto di zicchire, si va di nappa, ruga per la benzina, i soldi per mettere a casa, rotonda, perché con la pensione solo non ce la fa. Però capita, considera che lui per andare per tutto il giorno fuori mette anche 20 euro di benzina nella barca tutto il giorno, me. 20 euro di benzina nella barca, si fa i piombi, ci vuole l'olio miscelato, no, anzi bugia, l'olio miscelato non ci vuole perché c'è molto la benzina, ci vuole tutto, il carenaggio della barca, ti si faccia un pezzo del motore di giamballo, e li dà 10 a 12, se sono piccoli li dà 12, perché, però quelli mezzani li dà 10 a 11, adesso comunque il prezzo è quello. Se va a comprarli in pescheria, se va a comprarli in coso, li paga 19. È lo stesso discorso del porcetto, non possiamo pagare un chilo di porcetto, anche che è nostrano, a 16,90 euro. Non si può, non ne mangio. Quello, a me come dà fastidio. La roba nostrana a volte ne approfittano. A chi tu mi vuoi far pagare 0,75 ml di vino rosso, Canonau, vino di Senduri, vino, a 20 euro in pulla. Non è possibile, non ci sta proprio per niente. Hai ragione, scusa Gianni, hai ragione, però è il suo prodotto, lui lo propone così, se ti piace te lo mangi, se no ciccia. Tuo padre 5 kg anche a me di polpi, mi ti viene da parte, ma veramente non sto scherzando. Gli ultimi che ho trovato erano a 13 euro, figurati. Quindi se li dà a 10 glieli sto prendendo subito. 5 kg me ne prendo al volo, ma giusto per togliermi la voglia, perché effettivamente come hai detto tu a 18 non si possono prendere. Gavi, è così, e io come la vedo in fotografia, questa è stagionata, esagerando, 15 giorni, non ha perso neanche il 15% di carne, inizia a perdere già quando fai una ventina di giorni che perde il 30%, quindi a un chilo tu già non ce l'hai più un chilo ma ce l'hai 700 grammi, nell'insieme di quello che tu hai fatto sono tanti chili persi, capito? Ecco perché succede questa cosa qua, se no te la dà dopo 3 giorni e tu hai un chilo di prodotto a per dire, anzi anche a 20 euro un chilo di prodotto, però tu non te la mangi perché è troppo fresca, la devi far asciugare, non te ne accorgi, e quando è bella fate c'è, ora è pronta a tagliare, però nel tuo piccolo che hai comprato un ciubo, un laccio, sappi che hai perso 300 grammi di carne, questo è quanto. Sì, lo so che va in perdita, lo so, beh, come il discorso anche dei polpi, no? Come il discorso anche dei polpi che prendi e una volta che lui si rilassa, che si è, perdi peso perché toglie acqua, capito? Quindi poi il peso netto è in tutto, cioè il peso netto devi guardarlo in tutto, anche nel porcetto, nel pesce, anche nei cozzi, cioè le cose perché si possono comprare, sono 8 euro il chilo, cioè sono 8 euro il chilo, 8 euro il sacchetto, sono un chilo e mezzo, ed è più buccia che si rampia che chi su che ti mangi, tutto quanto c'ha a quello che va in perdita, la carne c'ha le ossa, no che non compri polpa, e la polpa la paghi a coso, cosa ti posso dire, a 10, a 12 il chilo, lo spezzatino, a 13, però è tutto utile, capito? Non ci butti niente. In questa maniera non lo so, la salsiccia va in piedi, come tutto. E il discorso che avevamo, il maialetto a 16,90 euro, si l'hanno magnato, a chi non l'ha comparato, diciamo. Ho preso carne e ho fatto la carne arrosto, niente porcetto. E si arrendono, ma si arrendono veramente, almeno da me non l'hanno visto, ma da voi, quando vorrà dire che troverò il porcettone, poi è strano, no? Ma passano i vecchi e li buoni e li mettono a 12, a 11, alcuni a 10, a cos'è? A rivetti vuoi va di là. Fuori dalle feste abbassi il prezzo, come ci perdi dopo le feste, ci perdi anche le feste, Io dico quello, la gente dipende dalla gola, perché sa che alle feste compri una cosa e allora sta nel rubricio, invece tira magni, arrivici e chissà chi ti avanza, da voi la vendi e la vendi a prezzo più basso. Io la penso così, noi perché uno va per allora, lui il pulpito va a vendere alle feste a 18, a 19, a 20 euro il chilo, pulpito appena rientrati da mare. No, sempre a quel prezzo li ha lasciati sempre a quel prezzo, venivano i biglietti tutti quanti da mano, ma proprio biglietti da mano. Va bene signori, dai, devo chiudere. Buonanotte e buon proseguo di acquisti. Ciao, buonanotte, vai Tino. Sì, aspetta, di dove è questa qua lì? Sì, è originaria di Osilo, però abitano a Pancali. Ok. Va bene, capitano, ti lascio andare perché tanto poi, se no questo discorso si prolunga e si tolgono gli altarini. Sì. Yes, dai, già la conosco, li conosco. Sono belle persone, per carità, attenzione, non ho niente da dire perché sono persone, cioè il marito è una brava persona, lì è una brava persona, però magari è roba del padre e ha messo l'annuncio perché la stanno vendendo, basta, ma sono brave persone, sì, veramente io ci vado molto d'accordo, sono persone a modo, persone serie, però capita, è troppo. Dai, buonanotte, ciao. Va bene, ciao, vai Gianni. Ehi, volevo dirti, ma un ciubo di salsiccia quanto pesa? Allora, quelli che ho fatto io non sono commerciali, quindi sono di quelli che ti può uscire 700 grammi, ti può uscire 500 grammi, ti può uscire 300 no, perché quelle me le mangio io, e sono le più piccole, sono quelle che fai per assaggiare, no? Guarda, pensa poco, sono da mezzo chilo a 6, 7, 800 grammi, ce n'è anche da chilo, ma quelle non le vendo. Ho capito. E vabbè, quindi se pesano 500 grammi te ne scendo i giubi, mura. E bisogna sempre valutare magari il prodotto, perché tanto alla fine se è buono è buono, è come la storia del formaggio comprato dal pastore. Se lo compri dal pastore è sempre un pochino più caro, ma il prodotto è più eccellente, diciamo, di compararlo in supermercato oppure in un altro posto. E poi sì, ci sono sì le spese, perché devi comprare tre cose, e siamo in un mondo difficile, felicità momenti e uia, gannacci in sabbia. E torniamo sempre al discorso che è un casino e che è un casino, quindi da una parte c'ha ragione Gavino, non si può comparare una cosa a un determinato prezzo quando ce n'è un bel, anche se tu la fai buona, artigianale, magari ha fatto una comparazione dei prezzi con chi la vende, se no non penso che chi sa abbia buttato il brigio vicino. Ma ragazzi, io parto dal presupposto che se, infatti mi ha risposto sì, e di Usilo, parto dal presupposto che se ti piace la cosa non devi guardare il prezzo, perché io ho comprato da poco una forma di formaggio, come si dice, al momento 13 giorni di stagionatura, poca roba. ho comprato questa forma di formaggio e ti dirò la verità che l'ho comprata perché mi piace, però se vai a comprare un formaggio lì a 20 euro al chilo non si può comprare, capito? È caro, ed è stagionato. Eia, però come tu è un prodotto genuino, vabbè, ma si può comparare sempre un prezzo battacciato da voi, non è che io, come ti desideri, tu meglio un gusto che sento Marani, non si sogna di comparendo e quindi già va bene lo stesso, da e niente, poi ognuno tira l'acqua al mulino. Certo, ma per carità, ma poi io dico sempre una cosa, non è che devo, non sei lì a giudicare la gente, uno mette il suo prodotto per quanto vuole, poi sa chi lo compra, se lo vuole bene, se no lo lascia. E infatti così non li costringe, non li costringe nessuno, e niente. E magari la vende anche tutta, ma magari basta un turista che su Valle di Nana è affondata, dice beh fa una cosa da mesi con chi e si incarica di un po', e fa, si è fatto contenta chi da buco. No, vabbè, allora tu pensa che una volta sono andato dalle parti di Muro, neanche scelgo la macchina, stavo guardando solo la spiaggia per vedere com'era il campeggio, che si è avvicinato questo, mi ha detto, formaggio ti serve, boh non ce l'hai, aiuto. È venuto, l'ho seguito, mi ha preso una forma 80 euro, così giusto per perché mi via zia, 80 euro di gascio. Vabbè, ma manco buono io, se era buono io ne passa la pena. Era buono ed era grande anche la forma, l'ho assaggiato e mi è piaciuto un bel. Perché lo fanno anche buono e poi è sano ed è buono e quindi valgono tutti valgono tutti. Come hai detto tu, non vedi voce, non bisogna baggiare, a chi tanto è inutile che... Allora il discorso è sempre quello, vai a cercare la convenienza e poi ne spendi sempre il triplo, ne chiesto il discorso. Certo, però voglio dire, a me mi dà fastidio la gente che magari si mette a... cioè ci sono tante cose dietro, no? Non si sa perché ha fatto quel prezzo lì, certo che se poi è esagerato, non è bile e basta, no? Non c'è il tanto di stare lì a... anche io il porcetto, quando mi hanno detto a 16 euro, te lo mangi, ma non è che basta, non ne ho preso, anche perché io lo pago molto meno di quello che propone. Certo, l'importante è trovare un equilibrio qualità-prezzo, da voi tutto il resto si può fare, tutto il resto poi si può fare. Certo, non sì, ogni giorno, però almeno dice me lo mangiate ed era buono, non me ne frega niente. Fa una soddisfazione. Allora, vabbè, comunque sia. A me mi dà fastidio molta gente, io ne ho, parlo di 4 anni fa, allora le facevamo molto grandi, anche io ho detto no, per me è troppo grande, ma un chilo e due, e quando mi dice dammi un chilo di zacchizza, mi ha detto, cazzo se no chi è, un chilo è, anzi un chilo e 100 se vuoi, ditela bene, perché non sono di quelli che guarda il grammo, no, se per dire mi esce un chilo e 100, un chilo e 2, gliela lascio lo stesso, non gliela faccio pagare, e gliela do come un chilo, ma voglio dire, non ti mettere a ribattere, è così, è grande, se la vuoi è così, se no me la porto indietro, non è un problema. Infatti, allora mio nonno giù, da adesso ci abita mio cugino sotto di noi, mio nonno c'era la chentina, allora lui quando, si comprava sempre il formaggio dal pastore, da Usilo, adesso non lo so quanto ne comprava, però io quando scendevo giù in chentina c'era uno scaffaletto con 6 ripiani e ce n'erano minimo 10 forme a piano, e lui cosa faceva dopo che se tipo lo stagionava, perché poi praticamente lo puliva, lo tipo con una rasoia lo raffigava, lo lavava una spazzola, poi metteva tipo appena di olio di oliva sopra, lo ungeva e rimaneva sempre bello. E tipo cosa ne so, passava babbo, passava zio e gliene dava una forma a ciascuno, capito? E si durava, quindi tipo formaggio ce l'avevamo sia per fare la pasta, per mangiarlo così. E niente, lui gli piaceva comprarselo, farlo, perché quando era ragazzo aveva fatto anche il formaggio, il nonno, e quindi ci aveva sta passione che di biazia la cosa naturale, compresa. Poi quando c'era il periodo dei pomodori si faceva, come si dice, l'usolacino, si faceva i pomodori fatti in casa, e niente, quindi era tutto un gusto diverso. Però sommando, come dice Gavino, alla fine c'è la spesa del prodotto, perché tra comprarlo, farlo, la manodopera e tutto, alla fine non è che te lo regalano, no? E allora, e beh certo, e vabbè, comunque, sono cose che lasciano il tempo che trovo. Tornando al discorso di poco fa del radiatore, tu mi dici costa un sacco, allora io l'ho trovato, ma se ti fai bene i conti conviene anche prenderlo nuovo, 100 euro, quindi... No, se costa così, nuovo si può comprare, perché almeno è pulito, è nuovo, però il discorso è sempre che devi sapere quel tipo di problema da dove è dovuto, se non è inutile che metti il radiatore nuovo e te lo riempi di olio di nuovo, capito mi hai? Sì. Ragazzo mio, sì, più che il meccanico non te lo può fare, non è che io non sono meccanico, quindi sono loro che devono darmi una garanzia di quanto è stato fatto. Sì, quello è vero, però poi magari ti dice ma il problema non è il mio, il problema è che magari c'era un'altra rottura e quindi è andato a intasare il radiatore nuovamente. Però io sono convintissimo che, a come hai detto tu, si sia rotto proprio dove c'è il cartellino dello scambiatore aria acqua olio, e quindi siccome quello lì con l'acqua, con il, come si dice, con il liquido del radiatore, molte volte magari si surriscalda e genera una specie di emulsione d'ossido, chiamiamolo così, probabile che abbia consumato quella specie di doppia flangia, che è una specie di radiatorino quadrato compresso con due tubi, e quello tipo all'interno se si marcisce, che fa tipo una bolla di ossido e va a perforare l'altra camera, è lì che si mischia tutto, allora sì che va nel motore. Ed è molto probabile che sia quello lì proprio. E adesso tu DVD in un punto un po' critico, però chi c'ha l'officina c'ha il ponte, c'ha tutto, ne toglie le ruote, toglie i parassassi dei paraurti e ci arriva tranquillamente. E io penso che sia proprio quello lì, perché è un elemento che, secondo quanti chilometri ha la macchina, che non è mai stato sostituito, si è consumato, dai, è l'usura e l'ha consumato. Quanti chilometri ha la tua macchina, sì? Già ne ha, quasi 300, quindi già ne ha. E allora è molto probabile che sia quello lì, perché a me, se tu fai una ricerca in internet, scrivi scambiatore acqua olio Freelander, più o meno ti fa vedere l'immagine e valuti, ed è quello lì, perché con i chilometri che hai magari hai aggiunto un po' d'acqua, poi magari hai messo il liquido, poi magari ne hai messo un altro modello di liquido anche se era lo stesso colore, capito? E quindi va a intaccare un po' quella specie di alluminio che non è più come l'alluminio di prima e quindi è più friabile, e quindi con la pressione dell'olio, la pressione dell'acqua, la temperatura magari in estate eccetera, si è usurato e quindi ti ha fatto quel gioco lì. Poi magari si è spaccato qualche manicotto di compressione d'aria al radiatore e quindi non aveva più pressione il motore, si camminava però non impegnava come si doveva impegnare, va lì. Non lo so, adesso vediamo, però ti ripeto, io ve l'ho proposto il lavoro, però insomma era per le mie tasche, non faceva adesso, capito? È inutile che dico sì, fallo e poi non riesci a pagarti, no, non è così che funziona. Anche perché questo non lo fa, ma lo fa a tempo perso, insomma, i soldi li do anche piano piano, non è che li do di botto, capito? Sì, sì, sì, no, ma c'è ragione, è giusto. L'importante è che lui adesso poi, quando magari ti controlla la macchina, il meccanico ti dice l'effettivo danno che ha subito la macchina, diciamo. E allora, vabbè, comunque sia. Vediamo un attimino, vediamo. Infatti, adesso lo sto cercando a vedere se lo trovo, giusto per farti vedere un'idea di come è. Cosa stai cercando? Lo scambiatore di calore del Freeland. Sì, lo so com'è, è una scatoletta grigia in alluminio, per passare due tubi, già lo so. Allora, chi sa se è fasciata dentro, se è bucata, chi sa dentro, che magari è proprio così, c'ha i chilometri, c'ha l'usura sua e quindi ha ceduto quello lì. Magari il resto non ha niente, magari tutti gli altri elementi vanno lavati a benzina, magari se c'è qualche manicotto che si è ammorbidito con l'olio, come si è fatto la mescola dell'acqua e olio, magari vorrà cambiato qualche manicotto, ma non penso che si siano scaldati così da rimanere gommosi, troppo elastici, né. Ma non credo, perché non ha fatto tanta strada da scaldare tantissimo, è che anzi forse non scaldava niente perché l'acqua era tutto in circolo, boh, non lo so, comunque sia. Il problema è che quando sei tanti mesi senza macchina è un problema, capito? Sì, perché sei abituato che devi andare, devi fare, devi andare su Rani, e se non hai un altro mezzo è un casino. Adesso vediamo, perché gli avevo anche detto, vabbè, se c'è un problema la prendo, la faccio fare da qualche un altro, non è un problema. Io non so se adesso, non so neanche parlato con Davide per queste cose, perché se andavo a prenderla e la portavo e magari la faceva lui, non so neanche parlato di quello, capito? Sì, ma infatti, cioè lui magari, io gli ho detto a vedere se c'aveva qualche motore, se aveva recuperato qualche motore, ma ha detto sì, ne ho recuperato uno, che c'è la turbina, la pompa di iniezione, perché questo fuori strada praticamente con un muletto la ne seguito l'humus ghiri con le volte. E allora l'hanno demolita insieme a Davide, e Davide ne ha tolto il motore, si era appoccato, perché praticamente gliel'ha data e poi tramite una conoscenza gliel'ha fatta rottamare da Carlisi di Porto Torres. Carlisi, quello che è vicino alla Ritz. Ho capito. Ora non so, adesso vediamo, sento domani cosa esce fuori, se no al limite io glielo posso anche proporre a tuo fratello se la vuole fare lui, se ne ha voglia di farla, se ha tempo, cosa ne so. Giustamente, insomma, io ti ripeto, mi deve fare un preventivo, perché non è che posso dargli l'ok e farla e poi dico no, non fa perché è troppo, capito? E infatti ti ho detto, io valuto adesso cosa ti dice il meccanico, che tipo di danno c'ha, e poi di conseguenza vedi se magari farla o comprare il pezzo oggi e poi piattarselo domani, comprese, ci sono mille cose che si possono programmare lì. Se poi c'ha solo quello scambiatore, come sto pensando io, è una gazzarda, dimmi, è che magari ci vuole un po' di tempo e di manodopera, perché lo devi svitare ed è in un punto un po' critico ed ci devi lavorare sopra, capito? No, vabbè, è frontale, si vede, è proprio facile trovarlo, perché tu apri il cofano e si vede proprio a bassi gli occhi, si vede, io l'ho visto da subito. Il problema è che c'è da fare questo lavaggio, quindi non so cosa comporta, capito? E niente, lì ti comporta che devi sempre smontarne il muso, i radiatori, quindi per lavorare bene, per poi pulire tutto, perché sennò è inutile che ne togli il pezzo e cosa la rabbia, pure il vapore uscito, una bomba. Non va bene, lo devi togliere perché sono elementi importanti, i radiatori e quelle robe lì sono importanti. Poi i baraulti rigosi a sto quattro bulloni. Infatti. Perché se no lavori male, sì, lavori male perché c'è il radiatore attaccato, non si vede, è un casino. Invece in quella maniera là ne smonti il muso con i radiatori, nello stesso tempo sistemi quello che c'è da sistemare, se c'è quel radiatorino dello scambiatore di calore da sostituire, si sostituisce, si lava il motore con il detergente, si è pulito e poi mano a mano fai andando e piazzando tutto il resto e lavando i radiatori e l'intercooler e l'altro radiatore di raffreddamento e poi c'è da piazzare il radiatorino dell'aria condizionata e quindi vorrà caricare l'aria condizionata se la usi e niente, quindi è tutto pian pianino, però è come ti sto dicendo io, si è bucato quello scambiatore, si è bucato e quindi è una gassada, che però ti impegna del lavoro che ti ruba anche tipo uno o due giornate. No, il riscaldamento, cioè il raffreddamento no, perché l'ho appena caricata e carica il gas, perché lo deve ricaricare. Non comporta niente quello. Lì ci passa gas, non ci passa né acqua né olio. Ehi, vabbè, ma se devi smontare il radiatore da davanti, perché lateralmente mi sembra che c'ha il radiatore dell'intercooler, lo devi sempre smontare, quindi devi sganciare il tubicino. A meno che nell'officina c'ha l'attrezzatura e recupera il gas e poi glielo rimette. Allora sì, però se uno che ti fa il lavoro così non ce l'ha quel tipo di macchinario che ne aspira di nuovo il, come si dice, il liquido del refrigerante. Il refrigerante aria condizionata, intendono. Perché sennò se lo perde il gas è un casino, quello costa un bel. Boh, non so, vediamo cosa mi dice domani, se come è messo, tanto domani sono rientreranno sicuramente. Sì, perché se non sbaglio allora lì quando apri il cofano sopra il radiatore di raffreddamento c'è quella specie di tubicino, chiamiamolo così, lungo, arricciato, che è una sorta di radiatorino del compressore dell'aria condizionata. Vabbè, quello non lo devi togliere perché tanto già non è indifferente, però lo devi sempre sbullonare per poi togliere il radiatore intero con l'altro radiatore del rifrigerante dell'aria condizionata, con le ventole, per poi arrivare tranquillamente a tutto quel lavoro che devi fare e fare un lavoro bello e pulito. Vabbè, quindi se c'è il macchinario ti recupera il gas dell'aria condizionata e se non figurava un bollettino che costa 70-80 euro, una cosa del genere, se no a metà di d'oro. Infatti, vediamo. Comunque adesso vediamo cosa esce fuori, dai. Infatti, ma guarda, per me è così, per me quel piccolo radiatore d'alluminio con l'attacco dei due tubicini, di uno dell'acqua e uno dell'olio, e vai tranquillo che se quello non c'è niente di rotto. Tutto al più magari c'è qualche manicotto principale da sostituire, giusto perché magari per essere sicuri, con qualche fascetta nuova e sei alla grande da burro. Sì, infatti. Vediamo, poi quando prenderemo l'altro mezzo vediamo cosa prenderci. Infatti. Vabbè, ma se quello te la sistema e funziona bene, vabbè, la usi per lavoro, quindi no. Poi se magari per uscire c'è qualche macchina di tua moglie già andava. No, perché anche l'altra è piccolina, è un pandino del cavo. Piccola, non buona. Cos'hai detto che è un pandino? Beh, allora. Ma di quelli tipo terzo tipo, di primo tipo quadrato, tipo ZVTZ? No, penultimo tipo, cambio automatico, però già anche lì. Se ne intende di cambi automatici tuo fratello? Sì, ma sul Fiat no, perché quella macchina lì c'ha il cambio automatico che è mezzo robotizzato ed è come quello che aveva l'amico, dai, praticamente l'altra settimana mi ha mandato delle foto di una 500 Abarth come la mia, modello la sua, era Gran Turismo mi pare. Il barile era la Gran Turismo, bella mia, azzurra, tutta con lo schermo del cruscotto, e faceva un rumorino, un rumoraccio strano nel cambio, e mi ha detto, boh, sembra che ci sia un asse fuori guida, ma dite, si intende di boh, questo qui di Grisallini, detto Giambu, e l'ha detto Davide che e non lo poteva fare perché bisognava toglierne tutto, e una volta che poi ne scendeva tutto e cambiava rotta, cosa faceva? Lo aprivi, ha detto che è un casino nido da questi giambi. No, perché ho notato che la terza non entra, capito? Vai tipo in folle, si mette, sta sgranando. Allora c'è da sostituire l'olio di quel cambio, ci vuole quel, adesso non me lo ricordo come si chiama, sai 70-80, quello è un, dove c'è tipo quel liquido, o è rosso o è giallo-verde, quell'olio che ci va in quei cambi lì. E tu pensi solo per l'olio non entra la marcia? Sì, perché si fa più grosso e quindi nei selettori che sono di ottone dentro il cambio, quando lui va a fare lo scatto e innalzarsi non ce la fa, capito? E quindi ci potrebbe essere il filtro interno che c'ha il cambio, che si toglie tramite uno scodellino, che ci deve essere per forza una finestrella a destra, allora il cambio è a sinistra, quindi dove alla sinistra ci dovrebbe essere un qualcosa dove si toglie il tappo e si vedono tipo i selettori, gli spinuti che danno il consenso delle marce, e poi vai i sincronizzatori che sono di ottone dentro, e quindi quelli se si imbrattano si fa una specie di olio a colla, per esempio va a buttare la testa e non ce la fa ingranare, capito? Ed è tutto lì il gioco, e quindi magari se vai tipo piano la ingrana, però poi come acceleri appena appena di più ne salta e te ne va di nuovo in seconda, capito? E cade ed è un casino perché lo so. No, fa tipo come una cosa del genere, tipo come si chiama? La rotella che non va a ingranare. Sì, fa tipo, salta tipo in folle e riparte la seconda, poi va di nuovo a ingranare la terza e non ce la fa ingranare. Esatto. E quello non lo sa fare. No, perché c'è stesso lì c'è un macchinario che lo attacchi al cambio quando scarichi l'olio e lo lava internamente, capito? E quindi non c'è bisogno di smontare niente, perché lava tipo il cambio e poi gli fa una sorta di vapore caldo e quindi ne scendono tutte le murchie, le impurità che c'è all'interno. E niente, poi dovrebbe funzionare bene, o a meno che c'ha stesso un sacco di chilometri e c'ha l'usura sua stesso, sì, a chi ha l'usura bene, che tutte le cose che vanno a usare ogni giorno si consumano, quindi con il tempo c'è sempre qualche punto esclamativo, dimmelo così. Lo so, va bene, giusto per vedere cosa, insomma, cosa ne usciva fuori, dai. Andare. Perché se no lì al limite l'unica cosa da fare è andare un rubiccio, pigliare un ciambo normale con la leva delle marce e piazzare un ciambo normale e si a posto. Aspetta un attimino che devo sentire un coso che mi hanno mandato, un audio. Ah no, era un audio vecchio, dai. Ho capito. E prese Lincoln GB 240 euro, ma te lo vuoi? Sega CD, ma CB è. No, prese Lincoln è buono, ma 240 euro no, dai. Non ho capito, sì, che vedi proprio il telefono che sei acceso, ma non mi ha fatto avvelenare. Ho detto che è un President Lincoln, però 240 euro, sono troppi soldi. Sì, sono un bel denaro, sono un bel denaro. Poi, se ora non ti interessa la radio e altre cose, già ve ne è tempo. Ah, vai, con quel prezzo lì ti esce un'altra radio HF. E infatti, io quella che avevo era buona, quella che ho venuto a Roberto Quadrato, e che non vi puoi fare danno, poi va nulla, io gliel'ho venduta, ho preferito venderla a lui, anche se gliel'ho venduta 100 euro, io l'ho pagata 140, ma non mi interessa, allora manco so che ve la edu, la dratta e le funziona. Vabbè. Dipende che radio era. Era una, mi sembra che era una Yaesu 220, che aveva il doppio S-meter con le luci verdi. Voglio dire, dipende, se mi sarebbe piaciuto me l'avrei tenuta. Ma era quella tipo 2 metri, mi ha detto davvero che tanto non c'era più nessuno in quelle frequenze, quindi faceva, non mi ricordo che tipo di frequenza faceva, e niente, però era bella avercela, perché tanto anche se non mettevi il microfono, se parlava qualcuno già si sentiva, e ve l'ho dato, radio e microfono, tutto originale, tranne il cavo d'accensione che c'avevo io un cavetto di computer che me l'avevo tipo infinigato, dimmo, fa entrare dentro la spina originale della radio. Infatti gli ho detto, mi filo, questo non te lo do, detto, se ce l'hai te lo metti tu, se no te lo compri a costare 10-12 euro. E niente, mi ha detto no, già ce l'ho, non ti preoccupare. Ed era contento. Se non è quella settimana veniva a Boguente telefonando. E tu che è la vuoi? E tu tizio, disse tizio. No, dalla tizio la giudizio. Dalla tizio che c'ha la patente di Sigosi ed è un radioamatore di Biasene di Gosi vintage. Preferisco darla a lui e darla a un altro. Va bene, allora mi sto salendo, la carico. E mi pare che ci sono incontrati o a cena e non so dove. È vero, io vabbè dai. Dipende, poi mi pare di prendere cose che piacciono a te, perché è inutile averle e poi non utilizzarle. Infatti. No, ma era, io l'avevo presa perché l'avevo beccata su eBay, il prezzo era conveniente, poi gli avevo fatto tipo un'offerta. Praticamente è costata 22 euro la spedizione dalla Germania, quindi alla fine la giubagarda io 142 euro a chi, gli ho fatto una proposta di 120 euro, me l'ha accettata e poi c'era la spedizione e niente, me la giubagarda me l'ha mandata in una settimana, è arrivata qua bella, perfetta, bella incelofanata, nel senso che c'aveva i pori siluri, le cose dentro e niente, ed era troppo dove, vabbè, però me l'ho venduta, non me ne frega, ma giù con paradovissa va. Oh, comunque sta andando bene, dai, vero? Ehia, va bene. Sì, quasi ne spengo tutto e ha chiuso con tutta tanta rimpiedi oggi. Sono rimasto in piedi proprio per stancarmi a chi era una giornataccia ieri e quindi non lo so, sto piano piano mollando e quindi preferisco saccarne tutta va. Beh, tranquillo già, non ti preoccupare, dai, adesso mi mando un messaggio a tuo fratello, vediamo un po', anzi domani te lo mando e vediamo un po' cosa vuole fare. Ok, dai, ci sentiamo, tranquillo, vai, riposati, ciao. E gli attimo, grazie, andami, dai. Vabbè, vedi prima cosa ti dice il meccanico, così sai cosa valutare. va bene, ok, ciao, ciao. E via, ciao Tino, buon proseguimento, io vado a fare una ricarica a batterie, che mi devo tracinare a fuori. Andate, dai, ciao Tino, già ci sentiamo prossimamente. Buonanotte quando la farai e io avanti e mi seguo. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, buonanotte. La poesia.